ci pensi in ogni cosa, se ci credi in ogni scelta, se lo vedi nella tua vita. Tra la follia e la ragione, tra la freddezza e la passione, tra la realtà e l'illusione. Una canzone non è arte, una canzone non è scienza, una canzone non è sole, cuore e amore. Una canzone non è un insieme di note, sta nel mezzo, la musica è nel mezzo, l'amore sta nel mezzo, io sono nel mezzo, sto nel mezzo, vivo nel mezzo, canto e suono nel mezzo. Quante volte dentro te non c'è, troppe volte dentro me non c'è. La vita sta nel mezzo, la musica nel mezzo, l'amore sta nel mezzo, io sono nel mezzo, sto nel mezzo, vivo nel mezzo, canto e suono nel mezzo. Vivo nel mezzo, canto e suono nel mezzo. In fondo questa canzone, purtroppo anche l'amore, e forse tutta la vita è una via di mezzo.